Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, sono arrivata pronta per iniziare con voi la giornata. Voi siete quasi pronti, armati di mascherina per affrontare una nuova giornata, e di mascherine parliamo oggi insieme al professor Giuseppe Monfrecola, dermatologo all'Università di Napoli Federico II. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. La mascherina ci protegge, dobbiamo indossarla correttamente, ma professore, alcune persone lamentano dei fastidi a livello cutaneo, cioè le pelli più sensibili si arrossano, compaiono brufolini. Allora, lei ci deve aiutare, professore, perché se la mascherina va indossata, noi vogliamo anche avere delle indicazioni per evitare e prevenire dei disagi a fior di pelle. Sì, è un argomento che, diciamo, si tiene in conto soprattutto nel nostro congresso nazionale, il congresso della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia, la SIDEMAS, che ha il suo congresso proprio in questi giorni per via telematica, ovviamente per ovvi motivi di sicurezza. Dunque, ritornando invece alla sua specifica domanda, dobbiamo subito distinguere, diciamo, due categorie: persone sane e persone con problemi di pelle del volto. Sì. Allora, se parliamo di persone sane, direi subito nessun problema a indossare le FFP2 o le chirurgiche, cioè quelle che noi normalmente vengono consigliate dalle autorità, perché non provocano allergie e non contengono sostanze irritanti, quindi sono assolutamente sicure. Barba e mascherina, intanto che ci sono, o baffi e mascherina? Nessun problema, si può fare tranquillamente, ci si può rasare, ci si asciuga, si deterge, ci si asciuga bene, quindi la prima cosa, regola, è asciugarsi bene e poi indossare la mascherina. Ovviamente è diverso il problema del personale sanitario, per esempio, che è costretto a tenerla per 6-8 ore, a volte di più, senza poterle mai togliere. Ai colleghi e al personale sanitario in genere, lavare bene il viso, asciugarlo bene, indossare tutti i dispositivi che sappiamo che non sono solo le mascherine, e quando possibile, ovviamente, anche per queste persone, dopo, alla fine dell'utilizzo, lavare bene il viso. Precedentemente, quello che si può fare, dipende un po' dal tipo di pelle, è applicare qualche crema emolliente o lenitiva cosiddetta, cioè diciamo una virgolette idratante, ma in piccole quantità, senza eccedere, altrimenti creiamo una maggiore costrizione. Queste creme serviranno un po' da protezione di quelle zone del viso sottoposte anche a sfregamento. Si possono usare anche delle paste inerti all'ossido di zinco preventivamente. Quindi ai miei colleghi e al personale sanitario che è così impegnato, suggerirei di fare questo: detergere, applicare paste protettive o creme lenitive e a questo punto indossare i dispositivi. Diverso è il problema, come lei ha accennato, di persone che hanno problemi del volto, che naturalmente hanno grossa difficoltà a tenere tante le mascherine. Parliamo di persone con dermatite atopica, rosacea, dermatite seborroica, acne, esattamente questo. E allora in questo caso la prima regola: continuare i trattamenti, cioè il trattamento prescritto dal dermatologo, sia in attacco sia in mantenimento di queste patologie, non va assolutamente interrotto. Direi che in questa maniera si riesce a far fronte un po' alla situazione, diciamo, dell'occlusione da mascherina, perché è evidente che lì dentro si crea un ambiente caldo umido che può determinare in qualche caso un maggiore, diciamo, apparire della malattia. Non la fa peggiorare, intendiamoci, la fa diventare soltanto più evidente, perché ovviamente se c'è del rossore potrà risultare meglio evidenziato dall'occlusione, quindi dal fatto che si sta chiusi in questa situazione. Però ecco, parliamo di persone che hanno la possibilità, fortunatamente, di togliere via la mascherina dopo che l'hanno indossata per una o due ore, e a questo punto ancora una volta accurata detersione con saponi normali, non bisogna usare cose particolari, e poi ancora una volta insistere con i trattamenti che ovviamente saranno differenziati secondo la acuzie o l'interessamento della malattia sul nostro viso. Quindi bisogna fare attenzione all'igiene e a usare i prodotti giusti, ma anche applicarli, professor Monfrecola, nel modo corretto. Questa è veramente un'ottima riflessione. Perché? Perché molto spesso noi vediamo che le persone abbondano in quantità In realtà, quando si tratta di trattare una zona, ecco, facciamo un esempio, se volessi trattare un'area grande come il palmo di una mano, metterei non più di una nocciolina, se mi passa il termine, di crema, ecco, quindi una quantità veramente minima, però il massaggio deve essere accurato. In altre parole, quando mettiamo una crema, garantiamoci che venga in qualche maniera assorbita, che quindi non vada a coprire, ma vada a essere attiva a livello epidermico o a degli annessi della nostra pelle. Quindi il piccole quantità, massaggio accurato per evitare poi occlusioni da crema. Professor Monfrecola, ci siamo occupati della pelle del viso e delle mascherine. Ci vogliamo occupare anche delle nostre mani? Ce le laviamo di frequente entrando e uscendo da una farmacia, un negozio, un bar, un supermercato? Utilizziamo i gel, acqua e sapone, acqua ben calda, ma la pelle delle nostre mani può in qualche modo reagire, diventare anche più sensibile. Quale attenzione e precauzione dobbiamo adottare? Bene, che cosa fare? Innanzitutto, se abbiamo la possibilità durante il giorno, e tanti l'hanno anche per molto smart working che si fa, eccetera, quella di stare lì a mettere un po' di creme, ancora una volta idratanti, emollienti, ce ne sono tante in commercio e quindi è utile metterne periodicamente, già durante la giornata. Per chi invece è costretto a stare all'aperto, o comunque a lavorare all'esterno e quindi lava le mani, mette le sostanze a tenerle sempre pulite al massimo, bene, al ritorno a casa ancora una volta detersione con saponi non aggressivi, normalmente quelli che usiamo non lo sono, e a questo punto ecco, mettere lì subito in opera l'idratante, l'emolliente, che va applicato ancora una volta in piccole quantità e un buon massaggio. Ecco, queste cose possono servire. Diversa la situazione di chi soffre per esempio di psoriasi o di dermatiti allergiche da contatto, da dermatiti irritative da contatto, dove la pelle è già di per sé più fragile, più sensibile. Consideriamo anche persone di una certa età che hanno già la pelle molto secca, in questi casi l'attenzione deve essere raddoppiata o triplicata, quindi metterlo più e più volte durante il giorno, soprattutto dopo i lavaggi, quando abbiamo un po' di tempo e non dobbiamo impegnare le mani in varie attività, mettere la crema avendo cura di massaggiarla bene, altrimenti poi le mani unte ci darebbero fastidio e questo certo ci porterebbe a non idratarle periodicamente. Professore, ci sono molte persone che utilizzano per periodi abbastanza lunghi i guanti. In genere quelli che si adoperano comunemente sono quelli trasparenti, sottili, sì, che usiamo nei supermercati. Ecco, quelli là sono inerti, quindi, e poi anche l'utilizzo che se ne fa è particolarmente rapido, nel senso prendo la frutta al supermercato, faccio altre attività di questo genere, quindi diciamo che quelli là non ci comportano problemi. Certo. Viceversa, persone costrette a indossare guanti, quelli in lattice, sapete bene che sono quelli un po' elasticizzati, cioè di gomma, chiamiamoli così, ecco, per capirci, in lattice. Bene, quelli là creano una maggiore occlusione della pelle, quindi che cosa accade? Che dopo averli indossati, casomai per ore, perché casomai facciamo un'attività che ci costringe a tenerli per ore, le mani a quel punto lì saranno umide, macerate. Ecco, nel momento in cui si tolgono qui i guanti, ancora una volta quella mano è più propensa ad essere permeabile a stimoli irritativi esterni, se già il guanto non ha creato di suo uno stimolo irritativo. Qualche volta capita in persone allergizzate al lattice. Bene, in questi casi, se c'è un'allergia al lattice, ricorre al dermatologo. Se non c'è, ancora una volta il consiglio è sempre lo stesso: detergere, asciugare bene, idratare, e idratare e massaggiare bene. Perfettamente. Questi sono i tre passaggi. Grazie professor Monfrecola, buona giornata. Buona giornata a lei. Bene, per oggi è tutto. Allora, indossiamo la mascherina e affrontiamo una nuova giornata insieme, ma ci risentiamo. Io vi aspetto dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e vi aspetto come sempre sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Ma non mi fermo qua, vi invito a partecipare alla nostra iniziativa della bufala in tavola. che abbiamo intitolato "E adesso cosa mangio?", per rispondere a tutti i dubbi che abbiamo sulla dieta, sul rapporto tra alimentazione e salute, che cosa posso mangiare, che cosa devo ridurre. Scriveteci le vostre richieste, i vostri dubbi, anche le vostre esperienze a obiettivo salute @radio24.it. abbiamo i nostri esperti a vostra disposizione, oppure mandate un messaggio vocale alla Nico. Abbiamo anche un numero: 335 590 6750. Voilà, lo mettiamo naturalmente anche sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Restiamo in contatto. Buona giornata, a presto, Nicoletta.